Siamo con Valerio Bindi per parlare crack, fumetti dirompenti al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino dal 21 al 24 giugno. Valerio, ben trovato. Ben trovato, buonasera a tutti e tutte quelle che ci ascoltano. Raccontiamo intanto un po', facciamo conoscere cos'è crack a chi non lo conoscesse. Sì, crack è uno strano miracolo, cioè, nel senso è una scommessa che è stata fatta da un gruppo di autori che a un certo punto ha cominciato a vedere che questi festival che anche partivano in qualche modo dall'underground degli anni 90, lontanissimi anni 90, poi finivano sempre in maniera più o meno incongrua, e quindi decisero di organizzare un festival che sostanzialmente partiva dal presupposto di non avere soldi e quindi di non poterli perdere. Quindi. E quindi era un festival che doveva essere autogestito, autoprodotto e autoconvocato, quindi gli autori si invitavano da soli, quei pochi soldi che si potevano fare servivano a ripagare le spese e fine lì, e tutti decidevano un po' a capo sua come gestire gli spazi, come organizzare la propria partecipazione. Queste tre cose però hanno fatto messe insieme, e improvvisamente siamo accorti che non l'aveva mai fatto nessuno così. E quindi improvvisamente poi più, diciamo che la vera botta insomma di cambiamento rispetto a qualunque altro festival è che noi siamo partiti insieme con l'Agenda Rossa, con autistici, insomma con delle strutture che avevamo lavorato a CMeeting insieme, avevamo fatto tante belle cose con la radio, eccetera, ma soprattutto è fatto Prenestina. Quindi abbiamo avuto il fatto che essendo di casa al Forte, io penso che ormai sono qua, tra poco festeggio i miei eventuali 30 anni dentro al Forte, e beh, insomma, chiaramente quella è stata il grande supporto, sia umano sia materiale, proprio di impegno e di lavoro di chi ci sta dentro, che supporta proprio fisicamente, faticando, costruendo le docce ancora oggi, dopo 15 anni, quando arrivano gli ospiti, c'è un grande senso d'ospitalità che si sviluppa nel Forte, sia poi anche garantendo che comunque i conti tornino sempre, perché comunque c'è il modo sempre di avere un supporto anche di intelligenza nella produzione di questa cosa. Quindi devo dire che è il posto più suggestivo, più incredibilmente proprio perfetto per un progetto del genere. Per cui è chiaro che da tutto il mondo se ne sono innamorati, e piano piano, piano piano, piano piano adesso è una comunità che gira il pianeta, una comunità interconnessa, che prima magari manco era tanto così connessa. Noi faticavamo molto a tenere Sì. insieme i pezzi di questa rete. E invece questa comunità oggi è una comunità che invece si vede continuamente. Noi abbiamo una rete di festival che si chiama, non è francese, popolare parla della liberazione grafica, è una rete un po' ironica questo nome ovviamente, e questa rete va, diciamo, dalle Ande fino a Canton, fino in Cina, quindi diciamo con una grande capacità di interpretazioni diverse. Insomma, noi abbiamo pensato bene. In Italia ci sono Solo in Italia ci sono circa 9-10 festival che lavorano con le stesse regole, con lo stesso sistema, diciamo, destrutturato di organizzazione. Sì. E la cosa importante, secondo me, è stata pure quella, no? Di cui ne parlavamo proprio qualche giorno fa, cioè di non voler inventare un marchio, un logo che doveva andare bene per tutti, ma di inventare invece una rete in cui ognuno partecipava con la propria intelligenza, col proprio modo, col proprio modo di essere al mondo. E quindi sia quello che ha 20 anni, come è il caso per esempio di Olé di Bologna, che è fatto da giovanissimi, che però anche loro si evolvono in un centro sociale molto vivo, sia nel caso di quelli invece più legati alla tradizione scuola. Ognuno ha cercato il piccolo paesino che invece deve risolvere problemi con le amministrazioni locali, eccetera. Ognuno ha declinato il progetto mantenendo sostanzialmente intatta il nocciolo duro, e però questo li ha fatti sentire tutti orgogliosi della loro piccola creatura, e quindi in grado di mandare avanti il suo piano, Cos'è quel 400 nel manifesto? 400 è stato una notizia che, diciamo, $400 per esempio, se stai al Cairo, il prezzo di un Kalashnikov, di un mitra funzionante, buono, in buone condizioni. Mentre invece avevo letto su questi giornali francesi che 100 dollari era sul mercato degli schiavi di Tripoli il costo di un essere umano, di un uomo. 600 una donna e 200 addirittura, poteva, con 200 ti potevi prendere un vecchietto, un bambino, uno che ha meno speranze di sopravvivenza. Questa cosa, che è una notizia riportata su tutti i media, per esempio francesi, è una notizia che era completamente invisibile in Italia, nessuno ne aveva fatto cenno di questa vicenda, perché in quel momento la politica del governo di Minniti, insomma, non faceva passare questo genere di notizie, perché sostanzialmente questo mercato di schiavi nasce proprio in occasione di un regalo, di un depistamento di fondi, cioè un fondo per l'Africa che è destinato alla cooperazione e allo sviluppo in Africa, e quindi noi dovremmo, come ex colonialisti o neocolonialisti, dare dei soldi per sostenere le imprese in Libia, per esempio, e invece questi soldi sono stati deviati e sono stati condotti a riparare, potenziare e velocizzare le navi dei guardiacosta, dei guardiani della costa libica, no? Della Sì, nave, delle sì. sono navi, diciamo, militari. E questo le ha rese molto, molto competitive nei confronti delle varie ONG e delle varie altre missioni di salvataggio che magari erano mandate dalle varie capitanerie di porto italiani, quindi non erano degli sprovveduti, ma erano inviati proprio. C'è stato un episodio il 17 novembre proprio di una sparatoria che la Guardia Costiera libica ha intrattenuto contro una di queste navi mandate da una capitaneria di porto italiana, che ha fatto dei morti, ha fatto dei sopravvissuti che hanno raccontato questa vicenda, e con la loro testimonianza è stato costruito l'atto di accusa verso l'Italia, che è indagata per schiavismo, stupro, riduzione della schiavitù, stupro, eccetera, e una serie di altri crimini verso l'umanità. Vedremo come va a finire questa cosa, però nel frattempo abbiamo pensato che forse nel momento in cui le politiche estere sono diventate politiche sempre più neocolonialiste, e dove il colonialismo diventa un po' una cifra ormai di lettura proprio dello spettro della società, e noi non potevamo dal nostro piccolo angoletto di disegnatori, di grafici, non provare a guardare dentro questa lente deformante e vedere che mostri ne stavano spuntando fuori, insomma. Quanti saranno gli artisti coinvolti in questa edizione? Guarda, difficile da capirlo. Noi abbiamo avuto, in genere abbiamo un giro, diciamo, di mail molto elevato. Una parte si iscrive tramite la call, che noi facciamo una call pubblica. Da qualche anno sfruttiamo i potenti mezzi dei servizi segreti americani, usando Google, per schedare tutti i nostri partecipanti. Quindi vi invitiamo a mandarci su questi formulari che loro gentilmente mettono a disposizione i dati che vogliono raccontarci per rendere più semplice comprendere come aiutarli. E però altrettanto c'è un'altra parte che invece non cede a questa lusinga e quindi ci scrive mail. Quindi diciamo che più o meno abbiamo sui 300 iscritti diciamo, in maniera ufficiale, più un altro 50-100 che arrivano invece in maniera totalmente autonoma. Alcuni non ci scrivono nemmeno, vengono e basta, arrivano, sanno che il giovedì funziona così e quindi sanno che le cose che fanno sono parte di questo giro e quindi non si sentono nemmeno in dovere di arrivano muniti di tavolo, di tutto, insomma non hanno bisogno sostanzialmente altro che di un abbraccio quando arrivano, quindi vengono e basta. Diciamo che poi di queste 300 iscrizioni ognuna vuol dire circa un giro di più o meno tre persone, perché alcuni vengono in cinque, qualcuno viene in due, ma nessuno viene mai da solo. Quindi, fatti il conto, sono circa 600-700 persone che espongono, più è praticamente una lotta tra loro e il pubblico, che poi si devono battere proprio fisicamente lo spazio. E queste 700 persone vengono quest'anno per la prima volta, stiamo adottando un sistema di organizzazione dello spazio, perché l'anno scorso siamo stati completamente sopraffatti da questa ondata caotica e quindi abbiamo lasciato, sai che il forte è costruito da spazi sotterranei molto suggestivi, queste celle che sono corridoio, diciamo, del posto dove si dormiva, o quello che era in affacciato proprio vicino alla Santa Barbara, il posto più protetto. poi ci sono questi grandi corridoi che collegano le varie aree. Quindi le celle verranno invece assegnate a dei progetti che sono stati presentati, che sono collegati al tema, o comunque sono dei progetti di workshop, sono progetti in qualche modo operativi, processuali, che servono a creare conoscenza. E invece tutti quelli che vogliono invece far conoscere le loro cose, mettersi in gioco invece come dire, senza una progettualità che sia oltre la progettualità stessa del farle le cose, da quelli invece si invaderanno proprio il forte a 360 gradi occupando tutti quanti gli afflati, insomma, quindi Ok. sarà anche interessante andare a essere molto più diffusi, credo, di quanto non sono stati nello studio. Senti, queste 4 giornate indicativamente come saranno strutturate? A partire da che ora? Dunque, diciamo, noi cominciamo tardi e finiamo tardi, nel senso che il nostro pubblico comunque è un pubblico che vive la notte, che interpreta, che vuole, anche perché poi anche proprio questi disegnatori, questi partecipanti, diciamo, sono poi lo sai, insomma, i disegnatori sono tutti dei nerd che stanno a tavolino, disegnano tutto l'anno e una volta che finalmente trovano un luogo, un modo per essere in comunità, tirano tardi la mattina, quindi diciamo si parte dal pomeriggio, dalle 4 alle 5 più o meno a seconda dei giorni e si va avanti fino alle 3, alle 2, alle 4 a seconda dei giorni anche lì. Il festival quindi è purtroppo una vera e propria forma di vita, io mi occupo, ti dicevo, non dell'allestimento, ma mi occupo di più del farli mangiare, del farli nutrire, del farli dormire, se ci riescono, ormai viene in campeggio a Crack e invece loro si occupano di riempire di contenuti. Poi ci sono le feste, quest'anno il tema ha portato anche lì uno sguardo diverso anche dal punto di vista musicale, avremo molti gruppi che portano delle proposte particolari, che vengono dall'Africa, dal Zimbabwe, dal Congo, insomma comunque ci sono delle cose un po' diverse da quello che siamo aspettati, perché ci aspettiamo di trovare a Crack. Perché poi questo tema sta modificando anche proprio la percezione degli artisti stessi, sono proposti artisti diversi. Per esempio quest'anno abbiamo una molto più ampia presenza di artisti che vengono dal Sudafrica. Anzi, il progetto centrale che abbiamo tradotto in italiano, abbiamo fatto un libro su questa cosa che è molto, di cui sono orgoglioso, proprio insomma, una delle cose più belle a cui ho lavorato. È il progetto del gruppo KIF che viene dal Sudafrica per l'appunto. Loro fanno capo a un'associazione che si chiama Young in Prison, fanno dei progetti nelle prigioni minorili, vanno, prendi, tu sai che la criminalità è un fatto, diciamo, connaturato all'esistenza, non c'è una scelta di entrare nella criminalità, c'è un'altissima, comunque ancora oggi, discriminazione. Non più razziale, ma sicuramente economica, che comunque alla fine colpisce sempre di più i neri, e i neri si trovano a rubare, a fare la rapina, diciamo, della normalità della vita da quindicenne. Dopodiché puoi scegliere, se puoi scegliere, la contata non continua così. E quindi loro intervengono proprio in quel momento, gli fanno vedere che possono raccontare le loro storie, e possono disegnarle, possono fare dei libri, possono costruire immaginari, possono costruire mondi. E da lì improvvisamente quello che era un ragazzino borderline che è destinato a una vita d'inferno in una successione di entrate e uscite dalla galera diventa un artista che viaggia per il mondo, produce storie che ti colpiscono, ti tengono proprio, ti rimangono dentro, disegnate avendo un'idea anche proprio del fumetto totalmente autoprodotto, quindi senza le regole, con delle regole riscritte, per esempio proprio la sequenza dei balloon non è la sequenza della lettura, ma è la sequenza, diciamo, della presenza dei personaggi sul palco. Cioè, leggere questi fumetti non vuol dire leggere come sei abituato a me, ma li leggere in una maniera molto più, se vuoi, teatrale, molto più affinata, con degli echi fra un balloon e l'altro, devi costruire un po' il dialogo, solo che parlassero tutti insieme, insomma, e Ok. tu devi riuscire a capire dove sta il discorso. È una struttura narrativa molto particolare. Valerio, allora in chiusura ricordiamo l'appuntamento al Centro Sociale Occupato Autogestito Forte Prenestino dal 21 al 24 giugno con Crack Fumetti Dirompenti, 14ª edizione. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Valerio Bindi. Valerio, un abbraccio e ci si vede Un abbraccio grandissimo, sono sempre felice lì. di sentirti, penso che hai sempre portato fortuna alla nostra storia e siamo sempre contenti di queste tue incursioni. Bene, un abbraccio e a presto. Un abbraccio grande, Fede.